La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, 16:30 primi e 45 secondi in questo 27 settembre in diretta dagli studi di Milano. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per ascoltarci in diretta o in podcast. Vi ricordo l'indirizzo, perché come avete visto abbiamo ripreso le puntate segnalate su temi da voi e con voi al microfono, quindi chi volesse fare queste segnalazioni è la versione di Oscar, @radio24.it. Ebbene, di cosa parliamo oggi? Vi dirò che la voglia di scegliere questo tema, e vi proporrò un libro e quindi sarà con noi ospite l'autore, deriva da uno degli sviluppi di cronaca politica più importanti della giornata, che molti di voi già conosceranno. No, non sto parlando del dibattito notturno tra Hillary e Trump, sto parlando della dichiarazione lasciata dal Presidente del Consiglio a proposito del ponte sullo Stretto. Mi astengo, perché ma chi mi segue da anni sa del mio scetticismo, della mia contrarietà rispetto a questa lunghissima vicenda italiana. Non c'entra essere contro le grandi opere, io sono favorevole alle grandi opere quando il rapporto costi-benefici è ben chiaro e quando le priorità delle aree in cui si propongono grandi opere o grandi eventi come le Olimpiadi a Roma non sono però altre, stante le condizioni generali dei territori. E allora, oltre a richiamare il fatto che è una legge ferrea da 20 anni nel nostro paese, che appena si avvicina un turno elettorale significativo o referendario, come in questo caso il Presidente del Consiglio di turno, di qualunque colore sia, rilancia lo sblocco del ponte sullo Stretto, perché è così, lo sapete, lo faceva Berlusconi e così via, la sinistra all'epoca insorgeva, siamo di nuovo alla proposta del ponte sullo Stretto, andando oggi alla cerimonia che ricordava un anniversario di una delle grandi imprese di costruzione italiano, il Pregillo Salini, ha detto: ma se voi mi riportate il progetto io lo sblocco, 100.000 posti di lavoro. Beh, insomma, almeno Berlusconi parlava di 1 milione, ma insomma, voglio dire, siamo sempre lì. Detto questo, proprio per ragionare sulle condizioni di fondo in cui incardinare quest'opera, ho scelto di parlare di questo libro che ho letto in questi giorni e a me è piaciuto tantissimo. Quindi, cari ascoltatori del Sud e siciliani, vi prego di intervenire, perché il titolo di questo libro, che è pubblicato da Marsilio, è Il Sud deve morire. Naturalmente non è un intento progettuale, è un titolo paradossale che descrive, come sentirete, con una ricchezza di particolari che è raro trovare, perché sono 300 pagine il libro, e con un'abilità di mano di un bravissimo giornalista, tutte le ragioni che portano al, io dico disastro, ma non per mancare di rispetto, cari ascoltatori del Sud, perché mi sentite ritualmente lanciare puntate su ma perché cavolo non ci occupiamo della malavita nel Sud, ci occupiamo, ognuno che muore ammazzato in America diventa una notizia che rilanciamo. E per carità, è un problema serio, quello della violenza negli Stati Uniti, i problemi missionari e così via. Poi si ammazza la gente a Napoli, in Campania, buh. Mentre invece a milioni guardiamo Gomorra, c'è qualcosa che non funziona nella nostra disattenzione generale ormai, cioè nel nostro fatalismo, nella nostra accettazione nel dibattito pubblico nazionale che il Sud decade di nuovo da anni rispetto alle medie nazionali, che già sono quelle che conoscete nella crisi. Allora, ovviamente quindi il titolo è un paradosso, il Sud deve morire, non è l'intento, è il contrario. Però, per capire meglio, io vi voglio leggere un sms che è appena arrivato, perché descrive, non ho alcuna pretesa che sia lo stato d'animo generale con cui viene accolta la proposta del ponte sullo Stretto, però il nostro ascoltatore ci scrive: Giannino, venga con noi in treno da Palermo a Messina, binario unico, motrici a gasolio, tempo 3 ore e mezzo, ponte sullo Stretto, ecco, mi pare una reazione che non manca di rispetto al Presidente del Consiglio né al suo spirito di volere grandi opere e grande slancio in Italia, però descrive esattamente la condizione in cui stanno i trasporti pubblici in Sicilia ed è la condizione in cui stanno in gran parte del Sud. Allora, questo libro, Il Sud deve morire, si divide in alcune parti che vi descrivo perché vorrei invogliarvi a spendere la cifra che costa, che non è altissima. Ci sono prima un prologo su alcune località per descrivere i problemi di quelle località come problemi generali del Sud, quindi Lampedusa, Castel Volturno, Papasidero, Barletta, Viggiano, L'Aquila. Dopodiché si indicano i mandanti, gli esecutori e i complici della strage del Mezzogiorno, per così dire. I mandanti, che sono i politici, i mafiosi e i nordisti. E qui ci torneremo, perché è un punto negato, lo so che nel nord non piace, ma ci torneremo. Poi ci sono gli esecutori di questa strage, cioè gli imprenditori, in questo caso del sud, e non solo del sud, ma del sud, i sindacalisti, l'Europa, i burocrati e gli antimafiosi di maniera. E questi sono gli esecutori. Dopodiché ci sono i complici. E attenzione, ascoltatori del nord, perché lo so che già state scattando. Nei complici, ecco, sono noi meridionali, è il titolo di Noi Complici. Noi meridionali che accettiamo con fatalismo tutto questo, ripiegati su noi stessi. Dopodiché c'è la conclusione paradossale, il sud deve morire, eccetera, eccetera. Allora, l'autore del libro si chiama Carlo Puca, è un giornalista che oggi scrive a Panorama. Io ci ho lavorato insieme alcune testate fa, sia per me che per lui, quando stavamo al Riformista. E oggi, appunto, ripeto, scrive a Panorama, però lo avete visto in televisione, è anche un autore, eccetera, eccetera, quindi non lavora solo su Panorama, che è un settimanale di Mondadori. E io ringrazio Carlo Puca di averlo scritto, innanzitutto, questo libro. Grazie di essere con noi. No, grazie a te, Oscar, e grazie anche delle belle parole. Insomma, cercherò di essere, come dire, all'altezza del compito. No, che altezza del compito? Se l'hai scritto, ma ti dico la verità, perché insomma è una questione importante, e sono molto felice, non per me né per il libro, anche per me, anche per il libro, ma soprattutto perché c'è un luogo dove si può finalmente parlare di sud. Guarda, tu dicevi una cosa prima: noi accettiamo con rassegnazione tutto quello che avviene al sud. Pensate a quante parole, a quante pagine abbiamo scritto, a volte sprecato, su Roma, che per carità ha i suoi problemi giganteschi, i problemi della Raggi, di 5 Stelle, eccetera, ma Roma è meno di 3 milioni di abitanti e, diciamo, ha una dimensione territoriale abbastanza relativa rispetto al Sud Italia. Ecco, il Sud Italia ha quasi 20 milioni di abitanti, una dimensione territoriale sterminata, ma non ne parla mai nessuno. Eppure i problemi del sud sono il 99% in più rispetto a quelli di Roma. Esatto. Cioè, soltanto questa proporzione rende l'idea di come sia proprio ormai destinato all'oblio il nostro mezzogiorno. Ecco. Io non so se sia destinato all'oblio, però leggo alcune pagine a caso. Per esempio, la lista degli impegni dei presidenti del Consiglio negli ultimi 20 anni. 1998, scrivi a pagina 178, Romano Prodi, programma per il sud presentato ai sindacati, interventi per 60.000 miliardi di lire, circa 30 miliardi di euro. 1999, D'Alema, al sud 400.000 miliardi di lire nei prossimi 6 anni, cioè 200 miliardi di euro. 2007, il secondo Prodi, rilancia, 101 miliardi di euro, 101 miliardi di euro, quindi si supera anche il D'Alema che erano. 2010, Silvio Berlusconi promette fondi complessivi che potranno arrivare nel tempo a 200.000 miliardi di vecchie lire, cioè 100 miliardi di euro. Poi nel 2013, Letta, abbiamo inserito l'obiettivo mezzogiorno nel nuovo piano industriale della Cassa Depositi e Prestiti, quindi investimenti fino a 95 miliardi di euro nei prossimi 3 anni. Poi arriva Renzi che annuncia 16 patti per il sud, uno per ognuna delle 8 regioni meridionali e per le 7 città metropolitane del sud, più un contratto istituzionale di sviluppo per Taranto. E qui però sì, 95 miliardi di euro, ma sono praticamente quelle delle risorse europee già stanziati, per così dire. E questo dà il quadro dei numeri e degli annunci. Poi, per essere chiari, siccome nel libro, cari ascoltatori, si prendono per le orecchie i fenomeni di degenerazione del sud, cioè non si passa in cavalleria nulla, per esempio, a pagina 86, l'elenco dei 105 parlamentari eletti nel sud, transfughi, 105, capite? 105, questo è il numero. Oppure la descrizione, e qui si torna sul tema, caro Saviano, di che cosa è stata l'industria, tra virgolette, degli sversamenti clandestini in Campania, e qui il nord c'è dentro fino al collo, fino al collo, per essere chiari. Oppure il racconto di che cosa può capitare se andate a Palazzo dei Normanni, quindi la sede dell'Assemblea regionale siciliana, e lo troverete chiuso ai turisti se non dal venerdì al lunedì, perché per il resto non si entra, tranne che c'è il racconto preciso di quando Carlo si presenta, poi appena capiscono che è un giornalista dice, ma poteva dirlo, lei è mica un turista, lo facciamo entrare di corsa e così via. Allora, questo è solo per dirvi che non c'è, non si perdona nulla a nessuno, però io vorrei capire innanzitutto una cosa, visto che non abbiamo chissà quante ore. I mandanti politici, troverete tutta la descrizione dei politici del Sud, nessuno escluso, Michele Emiliano, Crocetta, di ciascuno si elenca con precisione cosa ha fatto e che cosa ha detto. I mafiosi, e va bene. Ci puoi spiegare perché al nostro pubblico nei mandanti metti i nordisti? Ma per due ragioni fondamentali. Una è che, poi naturalmente la generalizzazione è un po' eccessiva, nel senso che naturalmente siamo sempre ai certi nordisti, ai certi politici, perché poi non è che possiamo sempre far di tutto un erbo un fascio, per carità, però i nordisti hanno, diciamo, culturalmente tollerata la deriva del Sud. Anzitutto non ci hanno dato una mano. E mi dispiace perché c'è una grande leggenda che io racconto sulle tasse che il Nord pagherebbe per mantenere il Sud, cosa vera, nel senso che la bilancia, diciamo, tende a favore del Sud per svariati miliardi, però il passaggio successivo non viene. Perché mai... tu dici, se prendessimo sul serio, cioè attuassimo quello che chiede il Presidente della Regione Lombardia Maroni, esatto, cioè le tasse pagate dai residenti al 75% sul territorio, se avvenisse davvero il Sud morirebbe letteralmente di fame. Quindi non è che neghi. Ecco. Non lo nego assolutamente, ma c'è il passaggio successivo che manca, cioè il 60% del PIL della Lombardia è fatto da beni e servizi che vengono consumati dai meridionali. Cioè quello che il Nord dà al Sud. Anzi, sono ancora più preciso, tu richiami un dato Banca d'Italia che dice le aziende settentrionali che continuerebbero a vivere in assenza dei consumatori meridionali, ipotizzando la scomparsa totale, sono 180.000 su 4,5 milioni. Insomma, c'è un destino di collegamento, non un destino che consenta l'indifferenza reciproca. Esatto, questo è un dato. L'altra cosa che è molto più materiale, diciamo, ed è proprio la preannunciavi tu, è quella della terra dei fuochi. Mi dispiace, ma la terra dei fuochi, forse pochi lo sanno, nasce su un progetto ben preciso delle grandi, di alcune grandi industrie del Nord, che decidono di sversare nel Sud Italia, così risparmiando costi di smaltimento e altre cose, svariate tonnellate di schifezze, naturalmente. E per fare questo non esitano a fare gli accordi con i criminali, con i camorristi. Prima, ma anche con la mafia siciliana successivamente. Naturalmente tutto questo gli si è rivoltato contro, perché poi questa è, io indico nel libro, sapete, le infiltrazioni mafiose al Nord ci sono sempre state naturalmente, ma a livello di bande, ecco, di investimenti, micro investimenti economici, ma quando l'accordo diventa ufficiale, cioè tra impresa del Nord, camorristi e mafia, sullo sversamento illegale dei rifiuti, è quello il momento esatto in cui gli imprenditori del Nord hanno aperto le porte alle criminalità organizzate, che fino ad allora hanno sempre considerato un problema del Sud, cioè delle vite di scarso meridionali, di questo postaccio, diciamo, in fondo al mondo, e pensavano in questo modo di risolvere, diciamo, un piccolo problema contingente, economico, svariati milioni di euro risparmiati, eccetera. Dopodiché, piano piano, le mafie, naturalmente, ha aperto quel varco, sono infiltrate al Nord, e anche in maniera massiccia, non lo dico io, nel libro c'è un'intervista a Ferla, che è il numero uno della direzione investigativa antimafia, che dice esattamente questo, cioè ormai le mafie sono al Nord proprio perché non si è deciso di fermarle al Sud. Ora, naturalmente, come dire, non è che, ci tengo a dirlo, sono molto severo anche con i meridionali, anzi soprattutto con i meridionali in questo libro, con noi meridionali. Certo è che però questa idea ottusa per la quale il Sud deve farcela da solo, che tra l'altro è anche di molti meridionali, io non credo sia praticabile. È chiaro che bisogna darsi una mano. E bisogna darsela anche sulle cose concrete. Ecco, una cosa che tengo a dire. Tu sei un grandissimo esperto di numeri, Oscar, questo diciamo, io ho imparato da te a metterli i numeri perché danno autorevolezza, ecco, ma non sono un giornalista economico, per cui io ho fatto un'altra operazione. Io ho, diciamo, rispolverato una vecchia regola giornalistica, che è quella di trovare il particolare per raccontare l'universale. E per cui lo sfascio dei treni di cui parlavi tu prima non l'ho raccontato in teoria. Io mi sono messo sui treni siciliani, sui treni calabresi, e ho fatto quei viaggi e li racconto. E sono viaggi, come dire, surreali, sono viaggi che definirei preistorici, non degni di una civiltà occidentale. Però che qual è l'impatto di noi meridionali rispetto a queste cose? Noi guardiamo queste cose come se fossero normali, cioè con un fatalismo che tra l'altro un tempo aveva un poco teaulico, il fatalismo, che è diventato totale rassegnazione, nella certezza che nulla cambierà mai, perché è inutile, diciamo, è inutile sperare in qualcosa, e tant'è vero che si sta manifestando la soluzione finale rispetto a tutto questo, che è un altro tema del libro. Cioè, il sud si sta spopolando. Secondo l'Istat nel 2050 vivranno al sud al massimo 11-12 milioni di persone a questo ritmo, 11-12 milioni di persone rispetto ai quasi 20, e naturalmente quelle persone saranno quelle meno qualificate, quelle che meno hanno studiato, meno hanno diciamo, avuto un'evoluzione economica, sociale, perché saranno diciamo, una massa di disperati che tra l'altro busserà poi alla porta dei ricchi. Naturalmente questa è una visione diciamo negativa, forse un po' catastrofica, ma non la dico io, la dice l'Istat appunto, cioè non è che sto inventando qualcosa. E allora come si ribalta la cosa? Perché aspetta, dare, su questa domanda, ecco, come ecco. Si ribalta? Un minuto di informazione sul traffico, nel frattempo vi informo i nostri ascoltatori che le agenzie battono da Israele che Shimon Peres è privo di conoscenza, familiari al capezzale per dargli l'ultimo addio. Torniamo tra un minuto. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta. Siamo partiti dalla notizia del ponte sullo stretto rilanciato da Renzi in vista del referendum, per parlare di questo libro, Il Sud deve morire, di Carlo Puca, 300 pagine acuminate, in cui si identificano i mandanti, gli esecutori e i complici sono i meridionali stessi di questa strage di Sud. Abbiamo visto che tra i mandanti ci sono anche i nordisti, però poi tra gli esecutori e i complici, come vedete, non si risparmia nessuno. Aspettate che c'è una notizia d'agenzia, il ministro Galletti: in Sicilia solo in 6 mesi di autonomia per le discariche, servono misure straordinarie. In Sicilia la capacità residua di trattamento e discarica dei rifiuti e gli attuali livelli di smaltimento garantisce l'autonomia regionale solo per 6 mesi, e l'assenza totale di termovalorizzatori rende ancora più critica la situazione. D'accordo. Guardate che ci sono pagine in cui Carlo Puca inanella le cifre delle distanze economiche tra il nostro paese, e sono cifre, a dirvi la verità, mostruose. Io invito tutti a leggersele molto attentamente, perché la media nazionale, che è già così poco soddisfacente, ci impedisce di guardare la Grecia al cubo che noi abbiamo a casa nostra per milioni di italiani e centinaia di migliaia di giovani, anche se ne stanno andando. E ci sono le statistiche della malavita, le statistiche dei comuni sciolti per mafia. Sono dal 2000 al 2015 33 in Calabria, 14 in Sicilia, 12 in Campania, 1 in Puglia e così via. Però eravamo arrivati al punto: che fare? Ma guarda, e questo è l'altro grande rimprovero che io faccio alla politica e anche ai meridionali che scelgono, diciamo, i loro politici. Perché noi lo sappiamo che cosa dobbiamo fare al sud. Non è un mistero, cioè lo sappiamo tutti. La ricetta è: dateci più soldi. Ecco, appunto, che è esattamente quello che non dobbiamo fare. Perché è esattamente quello che non dobbiamo fare. Cioè, dobbiamo avere, diciamo, un periodo intermedio in cui usare bene i soldi. Inciso, mi piace tra le tante cose il capitoletto in cui Carlo distrugge quello che invece è stato sempre proposto da 20 anni come il modulo di crescita per il Mezzogiorno, cioè la programmazione europea. La programmazione dei fondi europei ha abbassato il livello progettuale delle regioni del sud invece che alzarlo, diffondendo la micro distribuzione, i micro progetti di decine di miliardi di euro, e l'effetto è pessimo. Comprovato dal fatto che quando, per esempio, faccio un solo esempio, il MIUR, la riforma buona scuola, si è inventato i laboratori di eccezione nelle diverse regioni, guarda caso, quelli del sud non hanno superato l'esame del concorso nazionale come qualità di progettazione, perché l'abitudine a mettere le crocette sui microprogetti in cui si disperde sul territorio, si disperdono le risorse del ciclo sessennale di programmazione dei fondi europei, è quello che purtroppo ha riradicato la capacità di visione su alcune priorità. Chiusa parentesi, dicevi? No, dicevo che sappiamo cosa fare, ma non lo facciamo per una questione di consenso, perché naturalmente tutto quello che si fa togliendo appunto assistenzialismo diventano voti contro. Questa è la verità, è molto netta. Io ti faccio un esempio concreto, appunto a Palermo. Però scusa, prima dell'assistenzialismo e del consenso, tu fai l'esempio dei comuni intorno a quello in cui sei nato, che sono comuni che avevano un tessuto di centinaia e centinaia di imprese nelle confezioni, abiti e così via, e descrivi il motivo per cui, non innovando, centinaia e centinaia di imprese si sono poi dedicate o ai falsi, che sono concentrati in campagna, e stiamo parlando di una quota dei falsi, noi critichiamo sempre la Cina. Sta cambiando anche quello, perché ormai i cinesi stanno fregando, esatto, i napoletani. E stanno fregando i costi di produzione cinesi. Però falsi, in quel caso si era creata impresa vera, dici anche di che comune si tratta, ma perché io lo so, ma anche chi ci ascolta no. E però lì poi alla fine è morta la cosa, al di là dell'assistenzialismo e del consenso. Ma è morta perché c'è stata una, appunto, un'incapacità di rendersi grande, perché di crescere. Questo lo dice anche il presidente di Confindustria, Boccia, meridionale, diciamo, ha veduto. Cioè l'idea è, l'esempio più grande è quello della pizza, no? Cioè noi viviamo l'idea che la nostra pizza sia la migliore del mondo. Per carità, io non mangerei una pizza se non a Napoli, ve lo dico subito, personalmente. Ma l'idea che questa pizza piaccia a me non vuol dire che piace al mondo. Bravo. Ecco, non vuol dire che piace al mondo. E qual è il risultato? Che noi abbiamo centinaia di piccole pizzerie a conduzione familiare, con uno, due, tre addetti, e intanto i grandi produttori mondiali di pizza, Pizza Hut e gli altri, che fatturano 11-12 miliardi di euro l'anno, cioè 11-12 miliardi di euro l'anno ognuno, stanno nel mondo, perché producono una pizza in America che io non mangerei, ma che piace in media al mondo intero. Quindi Pizza Hut. Però quando Illy voleva aprire l'Accademia del Caffè a Napoli, eccetera, eccetera, l'ha aperta e se n'è andato poi. Se n'è andato perché i produttori locali, piccoli e grandi, naturalmente gli hanno fatto la guerra. Non hanno, diciamo, fatto squadra, perché non c'è proprio l'idea della squadra, c'è la piccola bega, la piccola gelosia personale, il pizzaiolo di fronte, e questo è avvenuto appunto anche nelle mie zone rispetto al manifatturiero. Cioè lì c'era una grandissima produzione di scarpe, era la Varese del Sud, Grumonevano, adesso qualcuno della zona, Grumonevano, Arzano, Casandrino, era un posto straordinario dove si produceva tantissimo. I paninari degli anni Ottanta vestivano con i vestiti prodotti ad Arzano, fingendo che venissero, diciamo, da chissà quale nazione indiana o straniera, diciamo, c'erano marchi come il Charro, eccetera. Dopodiché invece molti lo hanno dimenticato, ma è così. Esattamente così. Dopodiché, che cosa hanno fatto? Invece di lanciare la sfida della qualità, o di mettersi assieme, di fare i consorzi, di fare cose, diciamo, come non hanno investito sull'innovazione. Non hanno investito sull'innovazione, allora, si sono ridotti pian piano a poi appunto a produrre cose di scarsa qualità fino ad arrivare ai falsi. Allora, poi c'è il problema su cui non volevo spendere parole in più, cioè il consenso di decisione di rottura. Però io vi propongo, al posto del Ponte dello Stretto, di leggere questo libro, Lo Sud deve morire, di Carlo Puca, e di tirarci sulle maniche tutte, perché è una vergogna quella a cui noi con indifferenza assistiamo. Continuate su Radio 24, appuntamento alle 8:20 domani mattina con me, Alessandro Milano, Attenti Noi Due.